Radio Popolare vi ha presentato La Caccia. Caccia, l'ideologico quotidiano, una trasmissione a cura di Felice Accame e Carlo Oliva. Grazie ancora una volta a tutti voi per la cortese attenzione, grazie ad Alessandro Diegoli per la regia. L'appuntamento rimane confermato domenica prossima alla medesima ora. Buona giornata a tutti.